Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Oh Milan, sei un grande come la ribollisa, più giorni passano e meglio lei. Buongiorno gente, Milan, senti davanti della pappa al pomodoro era peggio, io te lo volevo dire. Ah Veronica, sono Marco da Roma, che se senti? Ma quando è che c'ha canti una bella canzone romana? Fatte valere! Defurbizzate Alessandro Milan! Milan chi? Eccoli i nostri amici che ci sostengono ogni giorno con i messaggi audio qui a Funamboli! Cara Veronica, che tragedia, mamma mia, ma grazie, cosa c'è da ridere? Grazie Roma! Così devo ma cominciare, cosa c'è no? da cantare eh oggi? No, detto che se cantavo una canzone romana. Ma no. L'Italia è in lutto, dai. Lo so. Dispiace per... Senti, dopo... Non per me, dispiace perché... Per il movimento, dispiace perché... I bambini. Abbiamo fallito un qualcosa che... I bambini. Anche a livello sociale poteva essere veramente importante. Ah, che tragedia. Sai di cosa stiamo parlando? Guarda, veramente sono in una situazione di grande imbarazzo. Certo, lo so anche io. Per le ripercussioni che tutto questo ha a livello socio-economico, culturale nel paese. Soprattutto perché tu mi hai detto che se io non lo so è grave. E allora io lo so benissimo che è successo. Se non lo sai, sallo. L'Italia dal 1958 non partecipava ai mondiali e stavolta no. Dilettantismo. Non lo so, Presidente De Luca, se questo è dilettantismo. Ma noi è per questo vogliamo le dimissioni. Ma cosa vuoi? Cosa vuoi tu? Vogliamo le dimissioni di chi? Noi vogliamo le dimissioni di... Di? Fustigazione. No, fustigazione no. Noi vogliamo la fustigazione di... Ma di chi però? È chiaro che molto probabilmente il commissario tecnico Ventura si dimetterà. Oggi vedremo la conferenza stampa che il presidente della federazione Tavecchio, anche di lui si chiede, come dire, si chiedono le dimissioni. Staremo a vedere, ma al di là di tutto è il disastro. Ma che facciamo l'anno prossimo da giugno a luglio? Burattini. Vabbè, no, io... Qualcosa lo troviamo, dai. Su. Sì, ho capito, ma il mondiale di calcio, ma voi donne alle quali non interessa niente di calcio, poi durante i mondiali siete quelle che organizzavate le spaghettate, le serate insieme, perché non ve ne frega niente della partita, però per stare insieme, per socializzare, no? Devo rivelarti tutti ammalindi che io anche in quelle occasioni latito. Proprio tu? Io proprio non ce la faccio, le prime quattro partite le passo a chiedere ma quello chi è? Vabbè. Quindi poi siamo alla fine, capito? Però mi rendo conto che è veramente una cosa molto molto grave e sono profondamente rammaricata anche del non poterti dare alcun tipo di supporto. Non fare finta di essere rammaricata. No, giuro, mi dispiace, vi vedo tutti così tristi, è arrivata tronfia la nostra Elisabetta Fusconi in redazione, lei che è italo-svizzera, ha detto vi toccherà di fare tutti Svizzera ai prossimi mondiali e va bene. Questo già posso capire anch'io che è abbastanza mortificante. Allora, a chi scrive subito, se volete chiamarci anche sull'Italia potete farlo, 800 24 00 24, a chi scrive l'Italia del vero sport festeggia, caro signore, sappia, ma è una questione, proprio il Sole 24 Ore lo scriveva due giorni fa, il mondo del calcio, che piaccia o no, ha mille difetti, sostiene anche economicamente tutti gli sport minori, le cui federazioni invece sono in netta perdita. Sport importanti, gloriosi, ma anche il rugby, la scherma, la ginnastica, sono sostenuti dall'introito del calcio. Quindi, al di là di dire il calcio mi fa schifo, va bene. No, ma infatti le ripercussioni anche economiche, ragazzi. Ora, al di là dello scherzo, non saranno belle tutti quei posti, quei luoghi di aggregazione dove si vanno a vedere le partite abitualmente, tutto il business che c'è attorno a questo, insomma, purtroppo. Leggete oggi il Sole 24 Ore, perdiamo l'1,5% di investimenti pubblicitari. Alle squadre che vanno ai mondiali, alle 32 squadre, vanno 790 milioni da dividere. Capito? E quindi allora, non scherziamo. Purtroppo la verità è che qui c'è un unico settore di cui io non mi occupo, l'ho lasciato in mano a voi e guardate che cosa è successo. Quindi da adesso io devo prendermi delle responsabilità calcistiche sulle spalle. No. Perché appena io mollo l'attenzione su una cosa, guarda che combinate. Ma non è possibile, allora, no? Allora, dai, se volete mandarci gli audio, dove ce li mandate le vostre siglette, cara Veronica? Al 349-238-6666. Questa era la formazione dell'Italia, no? No, è il numero per mandarci anche i WhatsApp, gli SMS. Chiamateci invece al 800 24 00 24. Noi però dobbiamo partire dalla notizia di cronaca dei giorni scorsi, che è una notizia che a me ha colpito tantissimo, è veramente sconvolgente, ma vi diamo colpisce dei numeri. Colpisce e continua a colpire, perché purtroppo ormai sembra essere diventata un evergreen. Soprattutto vi diamo tra poco dei numeri, ne ho letto uno che a me inquieta molto. Eccoci. I've got a right to be wrong. A voi assassini, a voi vigliacchi che vi nascondete nel buio della notte per uccidere, a voi bestie senza cuore che lanciate sassi per colpire un innocente, a voi che anima non avete e che amore non conoscete, io mi rivolgo. Io sono in voi e non vi lascerò più finché giustizia sarà fatta. Vi torturerò piano piano, vi farò impazzire come voi avete fatto impazzire noi. Non avrete più un attimo di respiro, perché non riuscirete più nemmeno a respirare. Non vivrete più. Vi odio, maledetti assassini. Vi maledico adesso e per sempre, e lotterò sino alla fine affinché distruggiate voi stessi. Non ho pietà, non l'avrò mai, e vi perseguiterò. Vedrete che ci riuscirò, lo capirete subito, e una cosa è certa. Lotterò fino alla fine perché non temo niente e perché ho un angelo vicino, Letizia. Quell'angelo al quale avete spezzato le ali per impedire di volare ancora incontro alla vita. Allora, questa lettera che Veronica ha letto fu scritta da Maria Rosa Berdini, devo dire un po' di anni fa, quindi anche sull'onda dell'emozione, della rabbia sicuramente, per l'uccisione della sorella Maria Letizia Berdini. Era il 27 dicembre del 96 a Tortona, forse vi ricordate, un lancio di sassi dal cavalcavia sull'autostrada. Sì. Maria Rosa Berdini, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a voi. Buongiorno. Perché quella vicenda purtroppo torna alla cronaca. Due giorni fa è morta una donna di paura per un sasso, si chiamava Nilde Calderini, per un sasso centrato, che ha centrato una macchina su cui viaggiava. Dal 31 agosto a oggi, due mesi e mezzo, si segnalano 63 casi di lanci di sassi. 63 in Italia. Non dico un al giorno, ma quasi. E 85 casi nel 2016. Esatto. Praticamente si tratta di un caso ogni 4 giorni, quasi, facendo la media. Quindi sono tantissimi. 63 poi negli ultimi due mesi e mezzo, la media è anche superiore. Sì, infatti purtroppo il trend è in aumento, cioè è in ascesa invece di diminuire. Signora Berdini, lei scrisse questa lettera dopo la morte di sua sorella. Sì, pochi giorni dopo la scrissi. Sono passati un po' di anni, ovviamente i sentimenti saranno diversi, però purtroppo la situazione è ancora... È tragica la situazione, purtroppo i sentimenti sono rimasti quelli, non è che poi ogni volta che si ripete queste cose ritorna tutto a galla, quindi certo. Il dolore si attenua col tempo, ma poi riaffiora, quello non lo toglierà più nessuno. E oltre al dolore, la rabbia ancora, che esistono ancora questi fatti assurdi di ragazzi minorenni, poi leggo, quindi qui prende un po' tutta l'età, minorenni e adulti, perché anche gli assassini di mia sorella erano persone adulte. Infatti gli assassini di sua sorella, io volevo anche ricostruire un attimo la vicenda, vennero chiamati la banda della Cavallosa, furono ed avevano tra i 18 e i 25 anni. Sì, qualcuno un po' di più, se non erro. Dei Quadrelli Furlan uno aveva superato i 30, mi sembra. Adesso non voglio sbagliare. E loro furono condannati a quanti anni? Perché adesso sono tutti liberi, no? Adesso hanno fatto pochissimi anni, perché prima al primo erano 29 anni. poi sono passati con l'indulto, lo sconto di pena, con il rito abbreviato, se ne hanno fatti solo 9. No, alla fine 9 ne hanno fatto. Alla fine ne hanno scontati. Senta, 9. Ma è chiaro che non ci si può far ragione della morte di nessuno, ma quando poi avviene così, senza, veramente uno dice senza senso, stava viaggiando nessun in macchina. Motivo, anche l'espressione futili motivi è riduttiva in questo caso. Lei che tipo di percorso ha fatto per dare in qualche modo un senso a tutto quello che è successo? Guardi, noi per 20 anni con tutta la mia famiglia che cerchiamo di far cambiare un po' queste leggi che purtroppo tutelano gli assassini e non tutelano le vittime. Abbiamo fatto in tutti i modi, stiamo anche lavorando, abbiamo fatto togliere anche, non so se ti ricorda, l'anno scorso c'era quel libro di fisica che uscì dove diceva ai ragazzi di fare un esempio da un lancio, da un sasso lanciato al cavalcavia. Abbiamo fatto togliere questo libro dalle scuole. Non ricordavo questa vicenda, ma c'era addirittura un libro in cui... Un libro di fisica dove su un esempio di questo incitavano insomma i ragazzi a fare un esempio. L'esperimento fisico per far vedere. Bravo, esatto, sì. Siamo riusciti a farlo togliere dalle scuole. Come ci siamo accorti che questo libro circolava, la casa editrice ci ha chiesto scusa. Perché signora Berdini, qui c'è anche un enorme problema di rischio emulazione, vero? Questo esatto. È un altro degli aspetti. Sì. Ecco, questo è un altro tema importante, perché sì. lo chiediamo a lei, poi presentiamo anche un'altra ospite. Si è detto e si dice attenzione molto spesso a parlare anche di queste cose perché c'è il rischio emulazione. Lei che ne pensa? Facciamo bene a parlarne? Se deve certo. Dire di no, ce lo dica tranquillamente. No, infatti, no, ce lo siamo chiesti anche noi ieri. Allora, quando è successo di mia sorella, si continuò a parlare sempre di questo, cioè successero dei fatti ancora più assurdi, continuavano a lanciare i sassi, tanto che ho deciso insieme alla mia famiglia, lasciamo perdere, facciamo le cose senza andare nei giornali tutto quanto, perché c'era appunto il rischio che questi ragazzi era diventata una moda, quindi non ne abbiamo parlato più. Poi vengo a scoprire in questi giorni che ci sono ancora tantissimi casi, anche pochi anni fa lo stesso scoprì che ancora continuavano a lanciare i sassi. Allora a questo punto mi ho detto no, non deve più stare zitti, cioè adesso ne dobbiamo parlare, perché il caso sta diventando molto preoccupante. Sì, perché in realtà non parlarne non ha fatto smettere gli episodi. Niente, cioè, assolutamente. Il primo episodio è del 1986 e la prima morta fu una neonata di pochi mesi che viaggiava in macchina con i genitori. Una storia. Passano sotto silenzio, però purtroppo ci sono. Ci fate presentare anche un'altra ospite che ci sta ascoltando e la vogliamo presentare con uno spezzone dello spettacolo teatrale che mettono in scena. Autorimorchio! 103 km orari, ma per funghi strassi. Una vita da Gianni. Una funghi e salsiccia. Bordo. Vengo a favore, 5 antenne della Marzucana. Tanto postato! Allora, Erika Galli, buongiorno. Sì, buongiorno. È regista e autrice insieme a Martina Ruggeri di uno spettacolo teatrale dal titolo I ragazzi del cavalcavia, che ha girato un po' l'Italia. Ed è proprio basato su quella storia che stiamo raccontando, sulla storia dei sassi di Tortona. Sì, esattamente. Saluto Maria Rosa, che ci siamo conosciute a Civitanova anche quando abbiamo presentato il nostro spettacolo lì in città. Viene da chiedere come mai l'idea di uno spettacolo teatrale su questo. Poi tra l'altro, al di là dello spettacolo, voi vi siete anche interrogati sulla tipologia di persone che si sono rese protagoniste di questi gesti. Allora, innanzitutto l'idea è nata, noi quando successe il fatto della Cavallosa era il 96, avevamo io 13 anni e Martina 10, eravamo molto giovani, ma ricordiamo ancora molto forte dentro di noi quell'evento e quanto se ne parlò. Successe un giorno per caso, perché eravamo in macchina passando sotto appunto uno dei cavalcavia, ci è tornata alla memoria insomma quell'evento e abbiamo come se fosse una memoria evolutiva di alzare lo sguardo verso il cavalcavia, perché un po' ci hanno educato a questo avendo vissuto in quel periodo, e quindi abbiamo deciso di indagare quella storia, riportarla alla luce. Anche perché, come avete detto prima, questi qui sono casi che non si sono mai placati nel corso degli anni, sono stati messi a tacere per per il rischio dell'emulazione, ma non si sono mai interrotti. Erika, c'è un aspetto che io volevo chiederti, che è l'aspetto che in realtà ritorna anche nelle dichiarazioni, nelle prime dichiarazioni che fecero i fratelli Furlane, che poi vennero ritrattate, che è l'aspetto della noia. Loro parlarono, appunto, dissero di averlo fatto perché, per noia, perché non avevano altro modo di passare le serate, le loro serate lì nel Basso Piemonte. Ecco. E questa è una tematica su cui anche voi, scrivendo, appunto, lavorando drammaturgicamente, siete tornate. Ecco, io volevo chiederti su questo, che idea vi siete fatte un po' del profilo di questi ragazzi? So che per lo più sono ragazzi di provincia, voi avete in qualche modo focalizzato. Assolutamente, anche perché io e Martina siamo di provincia, siamo di Civitavecchia, e quindi un po' quell'ambiente lo conosciamo, e conosciamo che cosa significa vivere da adolescenti nella provincia. Però le differenze sono due, nel senso che la storia che noi andiamo a trattare è del 1996 e, come dicevate prima, non sono tutti adolescenti. Il ragazzo più grande del gruppo aveva 32 anni e lì si parlava di noia, di provincia, non c'era internet, c'era il 2000 che stava per arrivare, insomma la situazione era abbastanza diversa rispetto ad oggi. La cosa che ci colpisce a noi, anche artisticamente, nel senso, se noi dovessimo riscrivere questa storia probabilmente sarebbe completamente diversa oggi, ma proprio perché forse la noia non basta più a giustificare, tra virgolette, un'azione del genere. Oggi si parla proprio di ricerca spasmodica verso delle emozioni sempre più forti, che può essere anche correlata ad un discorso di noia di provincia, ma secondo me non basta più come attenuante. Non so. C'è da dire. No, ma è chiaro, poi ogni vicenda è molto diversa. C'è da dire che la vicenda, l'ultima, di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, non sono ancora stati trovati i responsabili, anche se si continua a dire si stringe il cerchio. Nel frattempo però sono stati arrestati invece altri due 17enni proprio ieri, credo, nel Messinese, Palermo e Messina, sì. Per un altro caso analogo, di nuovo hanno colpito una macchina, grazie al cielo non ci sono state vittime, e ci sono stati 3 episodi negli ultimi 4 giorni, quindi questa storia del fatto è quando si verifica un caso, sì, poi lì, vabbè, se ci fosse sarebbe, un eco. Sì, ci sarebbe anche da interrogarsi sul ruolo della stampa. Una notizia, quando muore poi una persona, al primo lancio di sasso, che normalmente finirebbe nulla in pagina, o finirebbe a pagina 28, poi diventa ovviamente una notizia. Non so se la signora Maria Rosa, di fronte a queste frasi, lo abbiamo fatto per noia, che ci furono 20 anni fa. Non li giustificai la volta e non li giustifico neanche adesso. Cioè, no, non ti può uccidere per noia. E di quella, di quella lettera, invece, di quel brano che Veronica Gentili ha letto, che cosa rimane dopo 20 anni? Di quella rabbia forte, no? Guardi, non si è placato niente. Ogni volta vado al cimitero, oppure mio padre, cioè il dolore più grande è anche la morte di mio padre, che è morto guardando la foto di mia sorella. Cioè, che lui, quando gli assassini sono usciti dopo 9 anni, babbo non ha avuto più pace di questa cosa. Quindi, cioè, anche io non voglio la pena di morte assolutamente, però voglio che anche questi ragazzi, questi adolescenti che adesso fanno questi gesti, devono essere puniti. Cioè, devono essere puniti, perché se a quei tempi si riusciva a dare una pena esemplare a questi che hanno ucciso mia sorella, sicuramente qualcosa si sarebbe placato. Cioè, non può essere, perché intanto lo fanno perché sanno che poi non vengono condannati. È questo il male adesso che abbiamo in Italia, ma per tutti gli omicidi. No, non forse dice, o forse dice, vengono condannati a pene che lei non ritiene. No, assolutamente, perché qui c'è proprio l'intenzione di uccidere, basta giustificarli con la noia. Ma che noia! No, ma poi la noia non è una giustificazione. Ma assolutamente, cioè lo sanno quello che fanno. Io le dico un esempio, ai nostri ho detto l'hanno fatto per noia, non è vero, perché loro era da un po' che tiravano i sassi, cioè non è che l'hanno fatto chiaro, solo quella sera. È chiaro che, voglio dire, hanno, no, giustificarli no, si cercava di capire, almeno questo era quello che avevano detto loro, lo facevano per questo, ma è chiaro che, voglio dire, nel momento in cui lo fanno sanno che possono uccidere una persona, se hanno 20 anni, 25, 30 anni, ci mancherebbe. Noi vi ringraziamo però, Maria Rosa Berdini, grazie. Erika Galli, autrice, ripeto, insieme a Martina Ruggeri, dei Ragazzi del Cavalcavia. Veronica, qui continuano a chiamare, indovina per cosa? Provo a dirne una. A dirne Italia? O la Svezia. Sergio ci chiama da Imperia. Sergio, leggo perché scrivono il senso. È vero che lei è felicissimo dell'uscita dei mondiali? Sì, è verissimo. Buongiorno a voi. Buongiorno, a tutti. Buongiorno Sergio. Non me lo faccia arrabbiare, Milan, che stamattina già lo vedo tanto provato. Perché è felice? Ma scusi, perché non si può essere felici che una squadretta di dilettantuccoli ha vinto e va ai mondiali? Perché la mia felicità deve essere annichilita? Perché devo essere, devo essere triste quando ho dei colleghi che ieri commentavano: ma no, figurati, vedrai che ci danno una mano perché la FIFA è il mondiale senza l'Italia, sai che giro di soldi c'è dietro? Quando io dicevo: ma io vorrei tanto che gli dessero una lezione di umiltà. Una semplice lezione di umiltà. Ma perché secondo lei adesso i giocatori dell'Italia saranno tutti più umili? No, so che è una lezione inutile, ma almeno a tutti quei tifosi che si fanno prendere in giro anche durante i campionati di calcio. Prendere è tutto in giro un circo. In l'altro giorno lei parlava di circhi, ma ce l'abbiamo un circo, bellissimo, fatto di umani. 22 in mutande che litigano per un pallone pigliando in giro con i miliardi che girano, i milioni di euro. L'altro giorno ho fatto una semplice riflessione: quando giocava, mi sembra, la Juventus o qualcuno importante, il Real, a Monte Carlo, l'unica condizione in cui probabilmente gli spettatori guadagnano di più di quei 22 in campo. Non è un amante del calcio, ecco, della passione, no, che aggrega miliardi di persone. Nelle parole di Sergio. Quindi evidentemente è un appassionato di calcio, deluso e ferito dal livello della sua squadra, giusto Sergio? Non lo so, lei è appassionato di calcio o no, Sergio? No, lei sta sbagliando. Io ho fatto per 35 anni judo negli scantinati puzzolenti. Ecco, sa che il judo, sa che il judo, come molti sport minori, è mantenuto ed è un bene questo, grazie agli introiti del calcio. Ma guardi, il mio maestro legga solo 24 ore, legga. Ho sempre pagato le mie tessere, mai ricevuto il contributo di nessuno. Non mettiamola così, le federazioni minori degli sport cosiddetti minori, anche se sono tutti sport importanti, sono mantenute economicamente, sono in perdita e sono mantenute economicamente grazie agli introiti del calcio. Questo non che le devono pagare. Milan le stava dicendo che Totti le deve venire a pagare la testa. No, Travecchio pagava le sue rate della palestra di judo. Ha detto questo, Milan. Milan ha detto che gli investimenti, non solo pubblicitari ma economici, che sono stati fatti per il calcio, non sono stati fatti per gli altri sport. Ha detto semplicemente questo. Se il judo non attira sponsor, e questa a me dispiace, non è colpa del calcio che li attira. Non è colpa neanche del judo. Ho capito, ma è una regola di mercato, mi perdoni, bene al judo, ma è una regola è di mercato. Quindi non è più sport, è un mercato. È un mercato, è certamente un business, di professionisti, certo, quindi è giusto che ce ne andiamo a casa, perché abbiamo un'Italietta che fa pietà. Va bene, infatti passata da una squadretta sportivamente, sportivamente ha ragione lei, non siamo riusciti a battere una squadra di medio livello e quindi è giusto che non andiamo ai mondiali, su questo non c'è dubbio. Sergio, la ringraziamo. Veronica, cosa hai imparato negli ultimi tre minuti? Che andiamo in pubblicità. Ho imparato che stavi per prenderti a botte con una ascoltatore che sosteneva Senti il judo. Senti qua Luisella che ti critica. Scrivono che Luisella ti critica. Vediamo, Luisella da Lecco. È vero che critica la Gentili, mi dicono. Luisella, che ho fatto? Oh, che bello, mi dica Luisella. Guarda com'è contento. Ormai è la guerra dei roses tra me e Milan. No. Luisella, che ho fatto? Ciao, posso darti del tu? Ci mancherebbe, certo. Ascolta, io sono un po' una coperta a double face, nel senso che sono una persona gentilissima, educata, però... quando mi parlano della nazionale e di una donna che non se ne intende per niente di calcio e che tu mi dici: ah, ma oggi cosa è successo? Questa ironia, arrabbiare da morire. Luisella, io chiedo perdono, ma te lo giuro che non ne so niente. Non è appassionata. Ma non ci credo, ma non ci posso credere. Non è appassionata di calcio. Io lo so che voi pensate che sia un vezzo, ma io ve lo giuro che è una di quelle tematiche delle quali purtroppo... No, ma possiamo dirlo. Ieri ma... alle 10.40 di sera mi chiama e mi dice: scusa, chi è Ventura? Ma vi giuro no, così. Non ci posso credere. Ma vi giuro Ma io così. Ve lo giuro. Guarda, allora, fammi sia. Dimmi, Luisella, lo faccio come compito. Sì. Dammi i compiti e io li faccio. Ti fa tutto quello che vuoi, ma non mi dire più che non ti interessa di calcio, perché guarda, non so cosa ti farei se tu fossi qui davanti. Vabbè, a me. Perdimi le botte. Prenderei un sacco di botte. No, allora, vabbè. Adesso, va bene. Io anzi, due mosse di judo da Imperia ho preso. Io adesso e tu... studio, adesso cercherò di studiare, cercherò di dimostrarmi preparata almeno alla sufficienza sul calcio. Vabbè, dai, tra qualche minuto avremo Gianluigi Nuzzi, che ha scritto un altro libro sui segreti del Vaticano. Sarà nostro ospite, il titolo è Peccato Originale, edito da Chiare Lettere. State con noi. I funamboli. Organizziamo durante le partite dei mondiali delle letture di Thomas Mann e obblighiamo l'Alessandro a star lì a sentire. Meno male che l'Italia ha perso. Caro Milan, l'anno prossimo in giugno vai nei boschi con Rastrello e Roncola a pulire i boschi. Tiferemo però Mediterraneo, forza Egitto, forza Tunisia e anche un po' di Maghreb, forza Marocco. Alessa, ma usa casi proprio brutti che da sharp. Diglielo pure tu a papà. Veronica, si sembra più buono. Diglielo tu a papà. Ma perché costringere i bambini adesso? Questa che è sempre Irzak. Che deliziosa creatura. Santera. Irza, allora, che è proprio bravo. Ma volevo dire, no, devo dire una cosa molto seria, che l'ascoltatore che ha chiamato proponendo delle lezioni, delle Thomas letture Mann. Di Thomas Mann, no, merita tutto il mio, la mia stima, il mio affetto, un bacio in particolare, perché è praticamente il mio scrittore preferito, non voglio dire l'unico, ma insomma, quindi quest'idea io la trovo eccezionale. Non so se avete capito, ma il dramma Italia per un giorno noi almeno terrà banco. Noi leggiamo i Buddenbrook, bellissimo. Ricordo uno dei momenti più angoscianti delle mie estati al liceo, la lettura dei Buddenbrook. Non capito? Lo so se Gianluigi Nuzzi, buongiorno, è un appassionato di calcio. Gianluigi, buongiorno. O dei Buddenbrook. No, dei Buddenbrook. Meglio Buddenbrook. Buongiorno a tutti voi. Comunque, come sai, Gianluigi, insomma, tiene banco un po' il dramma nazionale. Per un paio di giorni sarà così. Allora, Gianluigi ha scritto Peccato Originale, un altro libro che in 370 pagine, corredato di molti documenti, cerca di districarsi tra i grandi misteri che sono legati al Vaticano, per citarne alcuni famosi: il caso Emanuele Orlandi, la morte di Papa Luciani, i conti dello Ior. Ma è vero che Madre Teresa di Calcutta aveva soldi sullo Ior? Questa storia... Sì, ma questo è che le suore di Madre Teresa avessero un conto molto capiente lo Ior è abbastanza normale. È sorprendente che a gestirlo fosse la banda Marcinicus, che con la destra raccoglieva i soldi, gestiva i soldi delle offerte per i poveri in India e nel mondo di Madre Teresa, e con la sinistra poi andava a riciclare le tangenti di Tangentopoli. Ecco, questo è un punto, direi, di grande antinomia che emerge da Peccato nel libro, insomma. Ma nel libro tu affronti moltissime questioni, Gianluigi. Chiaramente la prima che è saltata in questo momento, è balzata alle cronache, è quella della lobby gay. Ci sono state queste, cioè, sono usciti diversi articoli, le dichiarazioni di questo chierichetto che ha parlato. E parla nel libro Peccato Originale di questo chierichetto polacco, fa una testimonianza sconvolgente delle violenze subite nel preseminario San Pio X e anche dell'assoluto diniego collettivo che è seguito alle sue denunce, al suo tentativo di raccontare quanto fosse accaduto. Ma io ho cercato di individuare i motivi che bloccano le riforme di Papa Francesco, cioè sotto gli occhi di tutti che Bergoglio, tutti i progetti che aveva messo in cantiere per rilanciare la Curia e poi quindi la Chiesa, evidentemente, sono o rimasti fermi o di fatto incompiuti, e creando anche una situazione di paralisi. Allora, visto che il precedente pontefice, Benedetto XVI, era arrivato alla rinuncia del pontificato, mi sono chiesto cos'è che blocca lì all'interno. E c'è una situazione, c'è una tela che soffoca ogni riforma e che possiamo dire per metafora, che è formata dal filo rosso del sangue, dei soldi, ecco allora l'archivio dello IOR, ecco le storie di sangue come quella di Emanuela Orlandi, con queste trattative con la Procura di Roma che cerco di scandagliare. Sì, quella è un'altra storia molto avvincente che tu racconti, cioè le trattative che ci sono state per la tomba di Renatino De Pedis. Credo che il Consiglio Superiore della Magistratura dovrebbe andare a chiedere ai magistrati che hanno fatto questa trattativa, chi hanno incontrato, cosa è successo, cosa hanno messo sul piatto, anche perché sono due paesi, almeno geograficamente, politicamente meno, fatemelo dire, però sono due paesi diversi, un conto è lo Stato Città del Vaticano, un conto è l'Italia. Certo. Poi c'è questo capitolo anche, direi, perché il stesso è una parte di questo blocco di potere che ostacola le riforme, che si esprime, e questa storia dei chirichetti è andata sui giornali perché è evidente che per la prima volta abbiamo delle denunce di abusi e violenze che si sarebbero consumate all'interno del perimetro del Vaticano, in quel Palazzo San Carlo che abbiamo già conosciuto per l'Attico di Bertone. Ecco, sì, esatto, questo, che è a fianco alla residenza Santa Marta del Papa. Ecco, a proposito di questo, c'è un giallo, Gianluigi, e ci devi aiutare a capire, perché tu hai detto che dopo queste denunce c'è stata anche la trasmissione delle Iene, e dopo la tua intervista in Peccato Originale, il Papa ha voluto incontrare il seminarista che è accusato di tutto ciò. Il portavoce Vaticano ha smentito. Ecco, ora. Allora, no, certo, questo è un passaggio che nel libro non c'è, nel senso che il responsabile della sala stampa del Vaticano ha smentito di incontri tra il Papa e la vittima. Sì. A parte che, fatemi dire una cosa, che uno, che la vittima allo Stato sembrerebbe, bisognerebbe declinare questa parola al plurale, perché posso dirlo oggi che questa storia che ho fatto emergere con Peccato Originale sta facendo emergere anche altri casi che dovrebbero occuparsi non i giornali ma la magistratura. Quindi certo. Io mi sto chiedendo dov'è la magistratura. Anche se avvenuto sul territorio vaticano. Quindi sì, ma se riguarda... Beh, no, Alessandro, perdonami, non voglio correggerti, ma essendo cittadini italiani, sì, nel momento in cui un cittadino italiano subisce una violenza in un paese estero, certo, la magistratura italiana può anche intervenire a tutela della incolumità fisica delle persone. Abbiamo visto il caso più drammaticamente potente di quello che sto esprimendo è il caso Regeni, no? Del povero ragazzo. Ecco, certo. Poi sulla quindi, almeno io, insomma, è una correzione di una cosa che nel mio libro non c'è, no? Ho parlato di incontri, ho fatto un tweet in cui dico che ha incontrato un testimone, e sicuramente c'è stato una consegna di documenti al Papa, lo stesso testimone, bisogna capire se poi ha consegnato anche la memoria della vittima, della prima vittima, che ha, anche alle Iene poi ha raccontato con devozione di particolari le violenze patite. Però questo è un momento, il Papa se ne sta occupando. Da quello che so io il Papa era stato informato in maniera sbagliata, cioè aveva capito che questa, gli avevano detto che questa era una storia di gelosia e invidie tra omosessuali, che secondo me è un po' distonico rispetto alla gravità dei fatti. Sì, che era un modo di ricondurla a una bega interna, quando invece è altro, insomma. Sì, anche se poi, Veronica, permettimi di dire che, insomma, che non solo il voto di castità, ma l'omosessualità è bandita in Vaticano, quindi... Certo. E invece tu racconti di una lobby gay ancora molto forte. Sì, però... lobby gay o lobby anti-gay, perché poi l'omosessualità, che certamente non spetta a me, come dire, io non faccio discernimento sessuale delle persone perché faccio un lavoro diverso, però l'omosessualità diventa strumento anche di ricatti, di pressione, cioè quando Chiaro. Una persona è omosessuale all'interno della Chiesa entra in un emisfero di potenziale ricattibilità. Evidentemente è vulnerabile, certo. Certo. Chiaro, ma io se tu dovessi dire in percentuale, proprio secondo te, questi macigni, questi segreti che la Chiesa si porta dietro, quanto ostacolano questo percorso riformista che è stato interrotto con le dimissioni di Ratzinger e adesso Papa Francesco? Cioè, se dovessi stimare chiaramente in maniera astratta, quanto è grosso? Beh, io vi do due elementi storici, fattuali. Chiunque si è occupato, vediamo chi ha cercato di fare delle riforme sui soldi. Allora, approvato Papa Luciani, il suo pontificato è durato 33 giorni. Papa sì. Wojtyla si è messo in mani completamente a Marcinkus, perché aveva come priorità la destrutturazione del patto di Varsavia, cioè voleva rendere la sua Polonia libera, solidale e quant'altro. Benedetto XVI, racconto nel libro che è mandato dall'interno dello Yord dei Cavalieri Bianchi, come il banchiere Gotti Tedeschi, ma non solo, il professor Condemi, De Pasquale, cioè espressione delle più alti menti nell'enorme antiriciclaggio che Banca Italia e tutto il sistema finanziario ha mai espresso di studiosi per garantire la trasparenza del denaro. Bene, questi soggetti scelti da Ratzinger sono stati via via tutti polverizzati, delegittimati, isolati e buttati fuori dallo IOR come Gotti Tedeschi, che fece scandalo. Sì. Quindi poi arriviamo alla rinuncia di Benedetto XVI, quindi abbiamo Papa Luciani, Wojtyla, adesso abbiamo Bergoglio. Bergoglio cosa fa? Appena arriva dice no, bisogna cambiare tutto, bisogna accentrare i dicasteri, bisogna rendere trasparenti le nostre finanze, dobbiamo dare esattamente idea di come gestiamo le offerte. Perché lo dice, Veronica? Perché sono in crisi le vocazioni, diminuiscono le vocazioni, diminuisce il numero di fedeli, cioè certo che quello no. Che diceva Bergoglio, Benedetto XVI, cioè la fede che è in crisi. Sì. Allora come tu arresti? Con la trasparenza anche la credibilità. Ecco, peccato che prende e mette a capo di questo progetto importantissimo, essenziale, chi lo mette? Mette il Cardinal Pell, che ha... anche lui ha dei problemi in Australia. Ha dei problemi in Australia, quindi perde anche lì un cavaliere. Allora, chi non ha detto a Bergoglio la potenza che queste accuse avrebbero si sarebbero riversate su Pelle, che già nel 2013 c'erano tutti i segnali di allarme? In ogni caso, se volete approfondire Peccato Originale, editore Chiare Lettere, Gianluigi Nuzzi, che è stato con noi, ti auguriamo di non avere i problemi che hai avuto con i libri precedenti sul Vaticano, perché ricordiamoci fu anche un processo con anche il collega Emiliano Fittipaldi, un caso di Stato, libro. Anzi di Stati. No. Peccato Originale, leggetelo, ovviamente è in libreria. Dobbiamo andare al traffico. Grazie. Poi c'è Gianluigi. Leonardo Manera, il nostro funambolo oggi in una versione un po'... Ma non lo so, è successo qualcosa. Ah, tra poco regaliamo anche due biglietti per il Teatro Manzoni, state con noi. I funamboli. Ah, Luisella, non mi tocca a Veronica, te lo dico. Senti, non ci capisce le calcio lei. Figurate io che fino a ieri pensavo che il pallone era quadrato. Va bene, va bene. Allora, sto ricevendo messaggi di solidarietà di uomini che capiscono niente di calcio e mi dicono: dai che non sei sola. Ecco, bene, bene. Trovatevi tutti l'anno prossimo, tra giugno e luglio, andate a fare una bella vacanza. Comunque, volevo dirti che a tavola per una signorina non sta bene parlare di calcio e di politica. Per questo io non me ne occupo. Di politica, come sai, io non parlo mai, no? Allora, ieri hanno vinto due biglietti Elena Magni da Monza con il titolo "A Francesco non piacciono le bionde". Avevamo detto il titolo sul divieto delle sigarette in Vaticano. E Roberto Bonalumi da Bergamo, due biglietti anche a lui. Il Papa mette a rogo le bionde. Siamo stati duri. Per che cosa? Per il Teatro Manzoni domenica. Domenica. Cioè... Scusate, no, adesso bisogna segnalare lo scandalo. Chi ha fatto? Chi ha deciso senza di me? A nostro insindacabile giudizio qui. Ma quale insindacabile giudizio? Io non sono stata interpellata. Vabbè. Insomma. Scusi, ad ascendere, com'è finita? È arrivato terzo. No. È arrivato allora, terzo. Amico dello scusi ad ascendere, si presenti davanti alla porta e chieda di entrare. Mi assumo tutte le responsabilità. Sono quattro biglietti per il Teatro Manzoni domenica 20:45, perché torna Platone. E anche oggi diamo quattro biglietti con il nostro funambolo Leonardo. Però non lo vedo io, scusami. Leonardo. Leonardo? Sono a casa oggi, buongiorno a tutti. Come sei a casa? Ciao Leo, che fai a casa? Che è successo? Sono a casa perché sono caduto dalle scale ieri. Mobili? No. Dalla scala mobile sei caduto? Scusa. No, sono caduto dalle scale di casa mia, per la verità. Stavo andando a vedere Italia-Svezia con mio figlio. Sì. E poco prima di andare, scendendo le scale velocemente, sono caduto e mi sono procurato una leggera distrazione al metatarso. No. Ma siccome non volevo privare mio figlio della gioia di vedere la partita, sono andato lo stesso, solo che poi il dolore si è acuito, sono andato nell'infermeria dello stadio insieme a uno svedese che aveva avuto un trauma cranico, e poi ho visto il primo tempo, che non ho visto in realtà, perché avendo il dolore al piede, ero in curva, non mi potevo alzare. Ogni volta che c'era un'azione interessante, tutti gli altri si alzavano, io quindi ho visto la schiena dei tifosi. Sei delle andato almeno così, nella così curva giusta. Nemmeno nel libro cuore ci sono. Sei andato almeno nella curva giusta, cioè vedevi schiene gialle di svedesi o schiene azzurre italiane? Vedevo schiene italiane, anche se sopra nel terzo anello c'erano i tifosi svedesi. Ma noi, caro Leonardo, siamo talmente irriverenti che abbiamo deciso che la notizia su cui titolare per fare un titolo e mandarci al 349-238-6666 il titolo migliore per vincere 4 biglietti anche oggi per Platone è proprio la tua caduta. Allora dacci gli estremi per fare un bel titolo. Allora, caduta. Allora, era il 13 ieri, quindi già questo dovrebbe indurre. Era il 13, sono caduto dalle scale andando a vedere la partita che poi di fatto non ho visto, insomma, perché appunto ho visto le schiene, diamo anche qualche altro. Ed è, Leo, è una distorsione? È una leggera distrazione. Distrazione al metatarso. Giocate su questo, in maniera distratto. Distrazione del metatarso. Sì. Questa volta, cari ascoltatori, ci penso io a decidere chi va. Hanno già fregato una volta. Mi raccomando, il messaggio dovete mandarlo al 349-238-6666. Dovete scrivere il vostro nome, anche la città da dove ci state scrivendo. E fate un bel titolo sulla caduta di Leonardo Manera. Il distratto Manera. Scusaci Leonardo. È un po' un titolo letterario, la distrazione del metatarso, no? La distrazione è molto di Manera, così. Evocativo, La distrazione del metatarso. Vabbè, Leonardo, camminava distratto il metatarso in quel pomeriggio. Domani ci vediamo, sei qui. Sì, mi hanno consigliato una decina di giorni con le stampelle, però domani sarò presente anch'io. Porti anche il metatarso, sì. Sì, porto il metatarso. Digli di non distrarsi più, per cortesia. guarda già c'è il primo titolo, cade in maniera disastrosa. Va bene, il titolo sulla caduta di Manera, fatecelo, è il titolo di giornale. Finisce qui la prima ora dei Funamboli. Vuoi diventare professionista del mondo radiofonico? La Business School del Sole 24 Ore, in collaborazione con Radio 24 e RDS, organizza il Master Part-Time Radio Management and Content a Milano dal 23 novembre. Per info www.radiomaster.ilsole24ore.com. I Funamboli. È stato tremendo sentire piangere Buffon. Mollaccione! Ma Mila non ha capito che la Veronica la chiama alle 10:40 per sentire la sua voce e non per sapere chi è Ventura. Ma su! Questo io non lo so, io sono un po' un tontolone da sempre. La signora mi ha beccato. Hai capito. Guarda cosa mi devo inventare per poterlo chiamare la sera. Comunque Veronica, stanno arrivando tantissimi titoli sul... Allora, la notizia del giorno la troverete sui giornali, ce l'ha raccontata Leonardo Manera, caduto dalla scala, distrazione al metatarso. E su questo vi abbiamo chiesto di fare il titolo per vincere 2 biglietti, anzi 4 biglietti per Platone. Sai qual è il migliore? Però non lo so leggere perché dovresti leggerlo tu, ma lo vedo da Scaur in provincia di Latina. Il migliore è questo. Ma n'era meglio una pizza? guarda e se taglia, come si dice a Roma. Ridi. C'è anche Manera in gamba. No, c'è anche Sventura, ma tra parentesi nera. Non è male. Che non è niente male. Uno che avevo pensato dall'inizio, un po' più aulico, ma che io apprezzo, che è la caduta degli dèi. Eh sì. Qui prendere e portare a casa Manera, bravo. E poi ce n'è uno anche celebrativo del programma che mi è piaciuto molto, che è la caduta del funambolo. Una distrazione. È vero, distrazione fatale. Sa se fa male. Comunque dovete mandarcela al 349-238-6666 per vincere 2 biglietti anche oggi. O meglio, 4 biglietti, vincono 2 persone, ma vi portiamo in coppia a teatro, quindi vi diamo 4 biglietti. Scriveteci anche da dove siete, se siete da Forlimpopoli, Firenze, Roma, Napoli. Quando vengo anch'io a fare lo spettacolo ne regaliamo 8? Quando venite, in tutto ne regaliamo 20, quindi voglio dire a spettacolo 4 al giorno, 4 ieri, 4 domani, 4 oggi, 8 al giorno quando ci sono anch'io, praticamente. Ecco, perché dobbiamo riempire, perché quel giorno sarà vuoto. Te la sei un po' tirata. Va bene, sono le 10:11 minuti, è la seconda ora dei Funamboli. Allora, tu Veronica hai mai lavorato la domenica? Sì, certo, come no. Certo, beh, dipende che lavoro fai, è inevitabile, chiaro, lavorare la domenica. Inevitabile, oh mamma mia, no, adesso no, ti no, sei già attirata. No, pensa, guarda che ti vai errato, c'è mio caro. C'è un calciatore, lavora la domenica. Non sosterrò questa tesi, sostengo che se fai l'attore, per esempio, ecco, è verosimile che tu debba lavorare la domenica perché ci sono le repliche, poi magari non lavori per altri 3 mesi. Ora, ma, dico, un lavoro a me noto. Ma non so, anche se lavori in tutti i settori del servizio pubblico. Se fai il calciatore, se fai il medico, per esempio, può capitare che tu debba lavorare la domenica. Se lavori ovviamente esercizi commerciali. E qui c'è una grande polemica, no, sulla questione, cioè stiamo parlando del lavoro domenicale, perché in Trentino Alto Adige, salutiamo uno dei consiglieri della provincia di Bolzano, il suo partito è Burger Union, la destra su tirolese, Andrea Spöder, buongiorno, buongiorno e benvenuto Spöder. Buongiorno. Lei ha presentato una mozione approvata all'unanimità, diciamo contro il lavoro domenicale, mettiamola così, cioè se non strettamente necessario, per limitare il lavoro di domenica, è giusto? Sì, senz'altro, anch'io lavoro di domenica come politico, però naturalmente diciamo che non è proprio necessario tenere aperto dei negozi per poter comprare le mutande, diciamo. Già interessante. E perché? Le mutande le posso comprare anche durante la settimana, non necessariamente devo tenere aperto la domenica, anche i giorni festivi, i negozi, per poi attirare le famiglie. Noi che abbiamo una bellissima provincia di montagna, siamo dell'avviso che le famiglie le domeniche le dovrebbero, potrebbero passare in montagna, non nei negozi. Ho capito. Ma perché secondo lei qual è l'aspetto più grave del tenere aperto la domenica? Cioè quegli effetti collaterali maggiori quali sono? Ma soprattutto naturalmente per gli impiegati. Noi si rivolgono moltissimi impiegati, diciamo, dei negozi, delle catene, adesso non faccio nomi, però naturalmente anche delle catene, dei negozi di abbigliamento e così via, che dicono, guardate, anche noi la domenica vorremmo passarla con la famiglia, con i nostri bambini, e naturalmente siamo obbligati in quel momento di lavorare la domenica, guadagniamo di più. Le dico anche che anch'io ho fatto il radiogiornalista, anch'io ho lavorato di domenica e adesso come politico lo faccio, però secondo me non è necessario tenere aperto. Ma guarda, su questo non necessario. Intanto salutiamo un attimo un'altra ospite, che dobbiamo perfezionare la sua linea telefonica, Spöder. C'è la questione annosa quando si tratta questo tema, dell'appunto, in genere si dice chi lavora nelle grandi catene commerciali per tenere la aperte. Competizione tra le piccole botteghe e i grossi centri commerciali. Ho capito, per esempio, se tu vai a fare un lavoro nei grandi esercizi commerciali, chiedi un lavoro lì, sai che sono esercizi commerciali che tengono aperte la domenica, cioè se le regole di ingaggio all'inizio sono chiare, se tu vai, adesso non possiamo fare nomi per non fare pubblicità, come dire, ma le conoscete, no? I grandi centri commerciali, per esempio, non chiedi un posto di lavoro in un centro commerciale dove sai che di domenica presumibilmente si lavora, o lo magari chiedi è nelle clausole iniziali, ovviamente, però tu non scegli quel posto di lavoro perché proprio vuoi andare lì, magari scegli quel posto perché c'è quel posto rispetto ad altri e la domanda è se è giusto o meno che si lavori in questa maniera. Ora, al di là poi della situazione contingente, per cui uno dice che maniera? Lavorando la domenica, lavorando nei giorni festivi, in cui storicamente non funzionava così, cioè la tematica è questa, è non il fatto il che mondo, uno lo sappia in partenza. È cambiato il mondo, non so, anzi facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sul traffico perché poi approfondiamo. C'è Serena Sileoni, che salutiamo, vice direttore dell'Istituto Bruno Leoni, buongiorno. Buongiorno a voi. Insieme ad Andrea Spöder, il traffico e poi ripartiamo da qui. Lavorare la domenica, si può, si deve oppure è una vessazione? I Funamboli. Allora, eccoci qua con Andrea Spöder e Serena Sileoni, Istituto Bruno Leoni, quindi liberali. che di fronte a questi discorsi non so se sobbalzano sulla sedia o forse un po' sì Leoni. No, io sono d'accordissimo con quello che dice il consigliere, perché è vero, non è necessario essere aperti la domenica, infatti oggi nessuno obbliga nessun esercizio commerciale ad essere aperto la domenica, è una facoltà. Quello di cui quello che non è invece una facoltà ma diventa un obbligo è se gli esercizi commerciali sono obbligati a stare chiusi. Oggi è proprio così. Chi vuole vendere slip la domenica può farlo, chi non vuole venderli la domenica può stare chiuso e andare in montagna. Mi scusi, ma il problema non è forse più del dipendente che lavora nell'esercizio benissimo, commerciale che diceva, non del proprietario? Benissimo, come diceva anche Milan, il dipendente ha un contratto, cioè ha firmato un accordo. Se non è d'accordo, può cercare lavoro in una piccola bottega che probabilmente la domenica sta chiusa, o anzi la domenica, soprattutto in zone turistiche come Bolzano, starà aperta e magari sarà chiusa il mercoledì. Mi si dirà, ma il commesso non ha la stessa forza contrattuale del suo titolare. Benissimo, spiace dirlo, questo è il mondo. Il mondo lo va so, così. Però mi faccio finire. Il mondo va così e va talmente, come dire, cerca di essere talmente equo questo mondo reale e non mondo delle speranze dove viviamo, cerca di essere talmente tanto equo che comunque il dipendente ha un orario massimo giornaliero, un orario massimo settimanale, un orario massimo mensile, agli straordinari che sono pagati di più del lavoro ordinario, i festivi ricadono quindi prevedono una maggiorazione del compenso, ed ha un sistema di turnazione per cui siamo un po' lontani dall'Inghilterra dickensiana. Sicuramente. Cioè, ci sta dicendo che non c'è né la schiavitù né appunto Dickens. No, fortunatamente. Purtroppo esiste, ma non in questi settori. Però il discorso, secondo me, è che portando così al parossismo, alle estreme conseguenze, il discorso un po' decade. È evidente che non parliamo di Dickens e di piccole fiammiferaie che lavorano la domenica. Il discorso è se ci sia o meno in questo modo una concorrenza al ribasso, e non soltanto in termini salariali, tematica che invece affrontiamo, la manodopera a basso costo, l'immigrazione, tutte queste storie, ma anche rispetto a tematiche come questa, cioè lavorare nei giorni festivi. Effettivamente, utilizzando queste regole, non c'è una concorrenza al ribasso? Non metto in condizione le botteghe a essere costrette a rimanere aperte la domenica perché lo sono i centri commerciali? Le dico soltanto una cosa, che secondo me c'è una forma di concorrenza molto più spietata rispetto a quella che fanno i grandi centri commerciali alle botteghe dei centri storici, che è aperta 24 ore su 24 e che vende tutti i prodotti possibili e immaginabili al mondo, che aprendo il proprio computer comodamente nella scrivania di casa. Allora, per dire Amazon, giusto per la chiarezza per gli ascoltatori. Sì, esatto. Non abbiamo scampo. Esiste un commercio elettronico che non chiude mai, non chiude mai, nemmeno alle 3 di notte. Davanti a questo, vogliamo ancora credere che le botteghe dei centri storici si tutelano dalla concorrenza dei grandi centri commerciali obbligando i secondi a stare chiusi? No, ma io sono totalmente d'accordo, si sa, e Veronica non tanto, anche questo si sa, cioè è come fermare il mare con le mani, cioè se c'è il commercio elettronico, se c'è l'offerta 24 ore su 24, se ci sono mille offerte, la bottega dovrà essere forte. Bisogna valutare anche se in un percorso di evoluzione, Alessandro, il lavoro è una materia plasmabile, allora, a tutti gli effetti, bottega, senza nessun confine la limite. La bottega dovrà, e nessuno vuole strangolare le botteghe dovranno specializzare, dovranno avere quella clientela di prossimità, a essere brave a catturare e fidelizzare il cliente, cosa che magari il computer non fa, perché che uno è esattamente fa quello che fanno. E attenzione, che il fatto di poter scegliere quando stare aperti, prima facevo un esempio a caso, chiudere il mercoledì se sei in un centro storico e tenere aperto invece il sabato fino a mezzanotte e magari la domenica durante gli orari di delle messe del centro storico. Sì. Questa è un'opzione che aiuta, è una facoltà che aiuta. Però c'è un punto, no, però c'è un punto, Veronica, visto che sai che vivo di dubbi e quindi su questo ti do ragione. C'è un punto. L'ascoltatore di ieri richiamerà, spero. Esatto, c'è un punto, effettivamente vorrei ricoinvolgere anche Andrea Spöder sul fatto che molto spesso, non so, chi fa la cassiera o il cassiere in un centro commerciale magari non ha la forza di poter scegliere tra 15 posti di lavoro. Non ha un enorme potere contrattuale per dire no, io la domenica vorrei stare a casa con mio figlio perché è l'unico giorno in cui posso purtroppo vederlo. Purtroppo ci sono queste situazioni, cioè c'è anche chi dice o quel lavoro o non ne trovo un altro e in quel caso ti devi adeguare al posto di lavoro. Però vorrei capire, Pöder, qual è la motivazione che l'ha spinta a far questo, a parte le bellissime montagne dell'Alto Adige? C'è anche una questione religiosa, per esempio, cioè stare Ma senz'altro, voi state ragionando sotto l'aspetto, diciamo, del guadagno, no? Il guadagno non è quello per gli impiegati che prendono qualche soldino, il guadagno è proprio per i proprietari, per gli azionisti dei centri commerciali, le catene e così via. Noi ci permettiamo qui, poi è stato votato all'unanimità, noi ci permettiamo qui di ragionare anche, diciamo, sotto l'aspetto della famiglia, anche sotto l'aspetto del rispetto religioso, sotto l'aspetto di una giornata di riposo. E se guardiamo che sarà, confine, che sarà il mercoledì, appunto, non è che si lavora 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Sarà il mercoledì mentre il figlio sarà a scuola. C'è la domenica e poi anche le altre giornate festive religiose che secondo noi qui, diciamo, dovrebbe avere anche un certo senso e dovrebbe essere rispettate. Però naturalmente se voi state o se si ragiona soltanto sotto l'aspetto del guadagno dei soldi, allora naturalmente possiamo tenere aperto tutto. Però se guardiamo oltre il confine in Austria e in Germania, i negozi non è che sono aperti, neanche quelli alimentari, e non vediamo la domenica o il lunedì gente morta di fame o di freddo o qualcos'altro. Se io voglio comprarmi le mutande, me le compro ancora a mercoledì. Queste mutande. Se mi voglio anche comprare, diciamo, il pane, me lo compro a sabato e basta. Poi la famiglia. Capito, però io allora, le stavo scrivendo, Veronica, le stavo scrivendo per te. Allora, medici, pompieri, infermieri, attori, piloti, controllori, guidatori di tram, attori, calciatori, proprietari di cinema, proprietari di teatro, poi non lo so chi ci sono, guarda poliziotti, carabinieri, chi lavora negli aeroporti, cioè voglio dire, vivono a turni, notte, perfetto, giorno, e domenica, quello è nelle sabato. Regole di un lavoro che si sceglie a monte, che per ragioni, certo. No, per ragioni di logica, di senso, sono costretti a lavorare la domenica. Poi esiste un'altra cosa che esula dalla logica, dal buon senso e dagli obblighi di un lavoro e viene scelto. Allora, siccome so che ti piace l'espressione capitale umano, so che sei molto affezionato a questa espressione, bisogna capire se esiste o meno un confine allo sfruttamento di quello che si chiama capitale umano. È sfruttamento, perché non nel momento in cui il lavoro diventa una materia che non ha più nessuna regola, la deregulation assoluta. Ma quali regole? Cioè la regola è che se la fai la cassiera in una, c'è anche da lavorare la domenica, non è sfruttamento, infatti, contratto. Poi possiamo dire, no? Discutere, non lo faremo perché entreremo in un altro capitolo, quali sono stati i risultati progressivamente del no, dell'andare avanti senza più nessun tipo di confine sul fronte economico del capitalismo. Abbiamo visto i risultati brillanti della crisi da cui stiamo venendo fuori. La mutanda è molto, io voglio essere libero di comprarmi una mutanda la domenica, ma questo voglio dire. Però c'è Carlo che ci chiama da Milano. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì. Volevo semplicemente raccontare una mia esperienza proprio di domenica scorsa. Ero a Monaco di Baviera, dove mi dispiace smentire l'assessore Pöder, ma i negozi sono aperti. Non è assessore comunque, va bene? Va bene, chiedo scusa. sono capitato a Bolzano con degli amici per l'orario di pranzo. Io ho casa in Alto Adige, so perfettamente che a Bolzano sabato pomeriggio, tardi, domenica è il deserto dei tartari, e ho detto vabbè, è inutile far stare per i bellissimi portici di Bolzano perché è tutto chiuso la domenica. Era tutto chiuso? Era tutto chiuso, tutto soltanto fuori. Che erano chiusi anche i ristoranti, i bar e qualsiasi esercizio. Erano a casa, Andrea Spöder sarà contento, era a casa con le loro famiglie. Sarà contentone e un po' meno contento. Lei no, lei no. Non approfittano di una bellissima città come Bolzano. Come potrebbero approfittare, infatti siamo andati a Trento. Va bene, siete andati a Trento, mettendola così, siamo andati a Trento. Va bene, non lo so, Serena Sileoni, il concetto di sfruttamento che introduceva Veronica Gentili, come... Vabbè, non è sfruttamento e non è vero che, non, che ci sia la deregolazione, perché se c'è un settore fortemente regolato è proprio quello del lavoro dipendente, ma questa forse è un'altra puntata. Io volevo però tornare su una cosa che ha detto il consigliere e se posso correggerlo rispetto al mio intendimento di quello che ho detto, io non parlo di guadagno, cioè non ne faccio una questione in termini di guadagno, tanto che non sono affatto sicura. Ma di libertà. Di libertà. Perfetto. No, lo dico, suggerisco io, a me di libertà, cioè. Di libertà di lasciare una mamma che magari durante tutta la settimana ha lavorato e le mancano i calzini per il figlio, andarli a comprare. Se per caso non c'è nessuna mamma che la domenica ha bisogno di quei calzini, il negoziante capirà che forse è più profittevole per lui passare la domenica. No, infatti, perché c'è anche questa cosa, se uno tiene aperto la domenica è perché c'è una domanda, cioè esatto. c'è qualcuno che ne ha bisogno, se no se uno tiene aperto e non entra un cliente, uno chiude. Non io non conosco i dati, ma dal punto di vista del profitto, forse lei lo sa meglio di me, io non so quanto, se non importa del profitto, però di che importa allora? Della libertà, appunto, della libertà di una domanda di andare incontro a un'offerta e viceversa. Se non c'è questa domanda, i negozi resteranno chiusi. Oggi c'è questa libertà di capire quando c'è clientela e di stare aperti quando c'è e di stare chiusi quando non c'è. Un'altra cosa, quindi non è una questione di guadagno. C'è una domanda una che però può far parte del superfluo, mi scusi, nel senso che io posso decidere, come dice l'assessore. Ma che dobbiamo condannare il superfluo? No, non lo condanno affatto, però posso decidere invece che esistono delle cose che sono nel necessario, non sono nel superfluo. Ma se io voglio dire, se voglio andare a comprarmi le mutande, ne ho 50, ma ne volevo una rossa, voglio andare la domenica, me la compro. Ma il livello di indisponenza di questo discorso lo lasciamo. Ma perché sono ce l'ho col mio collega, mi scusi, non è questa. Sì, ma non è, io non ho nessuna pretesa di pensare quanti slip debba avere una persona. Se ne vuole avere 100 più 1, faccia come vuole, non certo, è un reato. Li può comprare fino al sabato, non c'è nessun problema. Ma perché devi obbligarla a comprare il sabato? Perché devi schiavizzare uno a non poter essere libero di comprarlo la domenica? Schiavizzo lui, non fino al sabato. Poi scusi, un'altra questione che è emersa, l'aspetto sacrale religioso. Sì. Personalmente io sono religiosa, io la domenica vado a messa, ma non tutti sono come me. Può darsi anche che vi sia chi preferisce un momento di convivialità e di ritrovo con la famiglia proprio andando nei negozi di prossimità del centro storico, perché in chiesa non ci va. Questo sì, però per concludere, Pöder, ci può aiutare questa a capire? È un'argomentazione un po', si può andare in tanti posti, cioè per avere un momento di aggregazione esistono, ci sono i bar aperti, ci sono i cinema aperti, ci sono i parchi, ci sono mille situazioni senza bisogno di andare in un negozio. C'è chi scrive oltretutto che vuole un contesto abbastanza impersonale. C'è chi scrive che mi vuole far lavorare alle 6 del mattino la domenica. Io anche un po' vorrei. Ma guarda che io ho lavorato per anni sui turni, anche il giornale radio, ho lavorato anche di notte, ho lavorato il 31 dicembre. Vorresti intenerirti dopo tutto quello che hai detto, non ci intenerisci. Andrea Spöder, per concludere, questa delibera che è stata adottata, praticamente cosa significa per il Trentino Alto Adige? Per la provincia di Bolzano? Significa che le nostre giunte, la nostra giunta deve impegnarsi naturalmente in modo che i negozi a domenica resteranno chiusi, a prescindere poi dagli aspetti e delle esenzioni che ci sono per le zone altamente turistiche. L'aspetto religioso è molto importante. Cioè, nel senso che imporrete questa chiusura? Senz'altro, se possiamo imporla, allora la imporremo. Naturalmente siamo un po' in contrasto con la legge nazionale, però noi come provincia autonoma possiamo ben fare delle cose, diciamo, fate il cavolo anche nostre. Però ancora una parola sulla religione. Se c'è religione, c'è la religione dei soldi, no? Ho capito che c'è qualcuno che ha proprio proprio questa affinità, diciamo, della religione elettorale, ci sono anche degli altri aspetti religiosi. Io invece la religione della libertà, appunto. C'è la libertà, ancora. Diciamo, sì. e poi c'è la libertà di guadagnare soldi, no? Alessandro, ma perché parli di libertà quando la libertà, è del datore di lavoro e non del dipendente che lavora? Ma come fai a parlare di libertà? Stiamo parlando della libertà. Il dipendente è libero di scegliersi un posto di lavoro in cui la domenica non si lavora. Non è una libertà, perché se non hai altre possibilità non è una libertà. Gli impiegati vengono sfruttati e la libertà è il datore di lavoro, diciamo, di guadagnare soldi e non dell'impiegato di lavorare. Quello lì viene sfruttato, la cassiera viene sfruttata. Ma perché sfruttata? Avete mai capito quanto guadagnano quelle lì? Che vorrebbero ma questa è un'altra questione. Ma queste questioni vanno viste tutte insieme, Alessandro. Non sono compartimenti stagni. Allora, se guadagni un salario di un certo tipo, oltretutto devi lavorare la domenica. In più non è che la cassiera che lavora nel grande supermercato ha 100 offerte di lavoro, le declina tutte perché fa quella choosy e sceglie invece di andare a lavorare lì. Questa cosa e allora è si un'obiezione che non accolgo, perché sono il primo ad averla fatta prima di te. Quindi sono il primo ad aver detto ci sono persone che hanno quella soluzione e basta. Ma di quello stiamo parlando? No, non stiamo parlando solo di quello. Stiamo parlando del fatto che le offerte di lavoro non è che piovono sarà dal cielo. Una così e ce ne saranno 100 invece che scelgono liberamente di andare di lavorare la domenica. O forse ce ne saranno 100 così e una che sceglie liberamente di lavorare la domenica. Tu non lo sai, non le sappiamo le proporzioni. E c'è comunque la libertà mia, tua, di chiunque, di poter scegliere di comprare su Amazon le mutande la domenica, oppure se è aperto il negozio di andare al negozio, se lo trovi chiuso non ci vai. Cioè, voglio dire, non ho capito perché si deve imporre la chiusura. Comunque, io cercavo di spiegarti che il dipendente non è il proprietario del negozio. Quindi se il proprietario del negozio vuole tenere aperto, il dipendente è costretto a rimanere lì perché il negozio è aperto. Perché ha firmato un contratto, sennò può andare a trovare un posto di lavoro. Non ridiciamo 50 volte le stesse cose. Sì, no, andiamo alla borsa, che così facciamo, siamo la radio del profitto, la radio del capitalismo. Cioè, andiamo a sentire la borsa. Ecco, i funamboli. Allora, sono le 10:39 minuti. Ah, che bello il profumo del sangue della battaglia. Ti piace, con Veronica Gentili. Quanto ti piace. Pensavo, l'hai visto Django? Vuoi ripristinare anche la schiavitù? Porca adesso ragazzi. Ci si può pensare, Sì, si potrebbe. Perché no? Schiavista. Ti metti a casa un po' di persone, li metti tutti in manette e li fai camminare. Certo. Ti piacerebbe, vero? C'è Massimo da Roma. Buongiorno Massimo. È da un po' che lì la ringraziamo. Buongiorno Alessandro, mi sto morendo di freddo in mezzo alla strada. Come mai? No, vai a coperto. Lo vedi? Ha già cominciato a tenere la gente per la strada a morire di freddo. Allora, in primis voglio dire che mi manchi da morire la mattina presto, perché io mi alzo tu adesso non ti alzi presto, io mi alzo alle 5. Sono un commerciante di generi alimentari a Roma da ben 20 anni e purtroppo oggi non ti do ragione, perché secondo me il discorso di aprire la domenica ha portato un disastro totale a livello commerciale ha portato un disastro totale. Non credo che queste grandi catene di ogni genere, dall'abbigliamento al cibo e tant'altro, oggi come oggi soffre anche la ristorazione perché ci lavoro, e ha portato soltanto grandi mode, stili di vita diverse e nient'altro, perché basta farci delle passeggiate dentro i centri commerciali e fondamentalmente non ci sono tutti questi grandi casse piene la domenica. Ma infatti tu Massimo credi che i profitti ne abbiano beneficiato? Cioè pensi che si guadagni? No. Assolutamente, per me no. I consumi sono diminuiti, ma quello è una questione, come dire, generale, generalizzata. Cioè la gente si è un po' impoverita, la classe media. Stavamo facendo una stima della crisi economica complessiva, no, ma facevamo una valutazione di merito. Ma è questa la questione. Cioè, non è che siccome i centri commerciali la gente non spende più, perché c'è la crisi, non ci sono i soldi nel portafoglio. Non è che se agiti quelle mani come un direttore d'orchestra sei più persuasivo. Te lo dico. Scusa Massimo. No, ma sicuramente la crisi ha influito ancora di più questa cosa, però io ho 42 anni, io mi ricordo che 20 anni fa che erano chiusi i negozi, che non c'era ancora, che bel mondo. Ma certo, ma anche una, guardi, un altro messaggio è arrivato dicendo: io non sono mai morto di fame quando non erano chiusi. Ma voglio dire, ma è certo, ma nessuno muore di fame, ma se si evolvono i comportamenti delle persone. Guardi, io ho una cara amica che mi dice: io non compro nulla se non non esco neanche dal mio letto, compro tutto su Amazon, tutto. Non è, dice, è chiaro che ha messo in crisi, come dire, i negozi della sua zona. Ma sicuramente. È libera di poterlo fare. Cosa possiamo fare? Allora chiudiamo Amazon. No. Sì, però poi dietro ogni lavoro c'è sempre una persona. Anche dietro Amazon ci sono molte persone che lavorano ad Amazon. Cioè il mondo cambia, non dico in meglio, ma cambia. No, ma il fatto che il mondo cambi, o decidiamo passivamente, supinamente di assistere ai cambiamenti, oppure pensiamo di direzionarli e mettere anche dei confini, altrimenti non avremmo messo nessun confine e culturalmente ci saremmo evoluti a casaccio. Io su direzionarli posso capire, sui confini no. Sui ancora confini, con questa no. storia vabbè. Sui confini no, non li voglio mettere i confini, scusa, la tua libertà finisce dove comincia quella di un altro. Il fatto che una persona sia libera di vivere la propria esistenza anche all'interno dei propri spazi domestici, dei propri spazi religiosi, fa sì tutto. Che tu non sia purtroppo libero di comprarti le tue benedette mutande nella bottega sotto casa. Purtroppo va così. Esistono delle limitazioni anche alla propria libertà, infatti, incredibile troverò, a dirsi troverò, ma è così. Troverò il negoziante che non ha problemi a tenere aperto e andrò lì. E tu farai così e lì troverai una persona, troverai un commesso che sbufferà con la faccia svogliata, che ti guarderà come a dire: io sono qua di domenica quando potrei stare a casa con mio figlio, potrei stare a casa con mia mamma, potrei stare a casa in qualsiasi situazione. Tutti sfruttati. Siamo un mondo di sfruttati. Massimo, non è così. Infatti stiamo dicendo una cosa abbastanza surreale. Siamo molto rispettato il lavoro, sappiamo che ci sono delle regole rigide, c'è un enorme rispetto del lavoro. C'è Andrea che abbiamo chiamato, sai che abbiamo ripristinato a proposito di lavori, i lavoratori atipici, lavoratori strani, lavoratori curiosi, lavoratori che ci stupiscono. Lavoratori! Eccolo là. Questa l'ha fatta Milan oggi. È vero, io sono contro i lavoratori, certo, come sono contro i pensionati, questa è un'altra Certo, poi aspetta, cos'altro eri? Io eri sono grillino contro, anche. Sono sì, tu grillino, sei anche grillino. Sono grillino. Perché non l'ho mai capito, ma mi contro piace. Contro i lavoratori e contro i pensionati. Voglio proprio dissanguare i pensionati, affamare i lavoratori, i commercianti soprattutto, voglio tutti sul lastro. Allora c'è Andrea che ci ha chiamato, ci ha scritto. Andrea, buongiorno, che mestiere buongiorno, fa? Buongiorno. Che lavoro fa? Faccio l'autotrasportatore, consegno gas industriali presso gli ospedali, presso le ditte così, e poi ho un piccolo hobby che faccio nel tempo libero, quel poco tempo che mi rimane. Lo dedico a questa cosa di garage, come voi vedete. Anche lui dal garage. Beh, quindi in realtà stai ma questa per cosa che cos'è però? Celebre. Ce la deve dire che cos'è questa cosa? Cosa allora, fai in garage? Io praticamente costruisco chitarre acustiche e violini. Ma straordinario. Wow. Cioè lo dice così, violini e chitarre, no, non uno Stradivari magari, ma no, Stradivari magari no, però insomma chissà, magari un giorno sarò ricordato come quello che faceva i violini in garage. Quindi, no. Chitarra di cosa, con cosa si costruisce? Chitarra si costruisce con legno massello di varie essenze, piano armonico in abete della nostra bella Val di Fiemme, e il fondo e le fasce con varie essenze, possa essere il palissandro indiano, l'acero marzato. Straordinario. Si può fare anche in tante cose, in pioppo, in ebano, tante sensi. Poi ma lì, come hai imparato, Andrea, a costruire degli strumenti musicali addirittura? Da 4 anni sto andando a un'importante scuola del centro chiesese, che nella mia zona, in Emilia, quindi dopo il lavoro mi cambio, mi metto il mio bel grembiule da falegname E vado a scuola per 2 giorni a settimana, 5 ore. Anche perché ci sono delle regole. Bellissimo. Delle regole sì. Non deve essere esattamente semplice garantire l'acustica. Sul violino ci sono regole ferre. Sul violino? Sì, esatto. Cioè, si calcolano le misure nell'ordine dei decimi di millimetro, quindi sono cose molto, molto precise. Ma molto siamo precise, già in fase insomma. Di vendita o siamo ancora in fase di apprendistato? Per ora apprendistato, anche perché facendo l'autotrasportatore il tempo a mia disposizione è quello che è, quindi mi dedico ogni secondo libero a queste cose. Quindi e lavora anche la domenica, Andrea? A volte capita. Se porta il gas negli ospedali, immagino che ce ne sarà esatto. bisogno anche la domenica. Esatto. Come... è uno di quei lavori che bisogna fare anche la domenica. Schiavizzato. Se posso fare una piccola postilla a tutto quello che avete detto prima, certo. Ma il problema non è, secondo me, lavorare o no la domenica, ma essere retribuiti giustamente anche la domenica. Chiaro che se questo io vengo pagato zero alla domenica è uno sfruttamento, ma se io posso avere una paga diversa degli straordinari, quindi secondo me si deve lottare a quello, non dire questo domenica sì e domenica no. Quindi, questo sicuramente è un discorso giusto, lavoro la domenica. Tra l'altro non si sente mai dire queste cose, sente sempre però noi abbiamo chiamato Andrea apposta per colmare anche l'ultima lacuna che c'era nel discorso. Andrea, abbiamo fatto l'ultimo cappello. No, noi ti ringraziamo tantissimo, autotrasportatore, ma in realtà noi vogliamo immaginarti nel tuo garage mentre costruisci un violino o una chitarra appena acustica. Lo abbiamo lanciato sul mercato, poi dopo faremo grande pubblicità ad Andrea per vendere i suoi violini e le sue chitarre. Anche voi, se avete un lavoro che ci stupirà, scriveteci a funamboli@radio24.it. Adesso... Ma anche se lavorate la domenica e volete maledire Milan, possiamo proprio fare una rubrica ad hoc. Soprattutto se volete maledire Milan in particolare, proprio volete chiamare e farlo, noi siamo disponibili. Ma io non ho problemi, sono come i pesci cani, mi nutro di sangue, di odio, per quello che ti è venuto quel ciuffo. È vero. Andiamo al traffico, poi avremo in una formula così il nostro Leonardo Manera, che ricordiamo si è un po' distratto al metatarso e quindi per oggi non sarà qui in studio, ma c'è i funamboli. Scusate, ma gli stessi che non vogliono lavorare la domenica sono quelli che poi la domenica vanno all'IKEA. Ragazzi, dai, ha ragione il tirolese. Cosa vuoi è liberismo e via dicendo. La libertà non è star sopra un albero. La libertà e tenere i negozi aperti la domenica. Una rivisitazione. Allora, cara Veronica, domenica ti posso chiamare ancora cara Veronica? Mi dai un pugno in faccia? No, puoi, però la frase cara Veronica, domenica cominci malissimo. Capisci? So che era casuale. Domenica, però vieni con me in un... No, scherzo. Domenica si vota Ostia. Sai che c'è tutta la questione anche di Spada, no? La criminalità organizzata che è entrata nella campagna elettorale. Allora, che il nostro cosa succederà dopo la testata famosa? I voti si sono spostati? Sì, vabbè, abbiamo rispolverato un'intervista che Leonardo Manera ha fatto un Vox Populi, è andato in giro. Il distratto al metatarso. La domanda è molto semplice di Leonardo Manera alle persone per strada, senti un po'. Lei sposerebbe un mafioso? Perché no? Sei una brava persona. Lei sposerebbe un mafioso? No. Neanche se fosse innamorata? No, se so che è mafioso, se non lo so, allora guarda l'amore. Sposeresti tu un pregiudicato, un mafioso, un malvivente? No. Perché? Potendo scegliere prima no, se poi lo scopro dopo è un altro discorso, però potendo scegliere no. Però scoprendolo dopo lo terresti? Non credo. Non credi, però se lui fosse ricchissimo? No, non credo. Tu sei un po' innamorata. Per l'amore ci penserei. Magari sei già incinta. Mamma mia, che sfiga, sarei proprio sfigata. No, non credo, credo proprio di no. Quindi? Quindi lo lascerei. Viene prima l'onestà? Sì. Sei sincera? Sì. Bugiarda. Lei sposerebbe mai un mafioso? Non credo. Però... Ma dipende, se mi farebbe fare una bella vita, può essere. Allora, lo ridica che così ce ne facciamo una ragione. Lo sposerebbe se... Se mi farebbe fare una bella vita, sì. Quindi c'è questa possibilità. Ci potrebbe essere una possibilità. Soprattutto se mi farebbe fare. Ma mi è piaciuto Leo, eh. Lo ripeta così ce ne facciamo una ragione. Lei sposerebbe un mafioso? Perché no? Sei una brava persona. Ma cosa? Ma porca miseria. Ma cosa vuol dire esattamente? Poi Leonardo, vabbè, ma sei innamorato un po'? Dai. Sì, facciamo esatto. Questa eccezione. Allora va bene, Leonardo Manera lo troveremo domani qui un po' meno distratto. Mi dispiace per domenica.